Cari fratelli e sorelle, vorrei presentare oggi la figura di uno dei grandi padri della Chiesa di Oriente del tempo tardivo. Si tratta di un monaco San Massimo che meritò dalla tradizione cristiana il titolo di confessore per l'intrepido coraggio con cui seppe testimoniare, confessare anche con la sofferenza, l'integrità della sua fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Salvatore del mondo. Questo Massimo nacque in Palestina, la terra del Signore, intorno al 580. Fin da ragazzo fu avviato alla vita monastica e allo studio delle scritture, anche attraverso le opere di Origene, il grande maestro che già nel III secolo era giunto a fissare la tradizione esegetica alessandrina. Da Gerusalemme Massimo si trasferì a Costantinopoli e da lì, a causa delle invasioni barbariche, si rifugiò in Africa. Qui si distinse con estremo coraggio nella difesa dell'ortodossia. Massimo non accettava alcuna riduzione dell'umanità di Cristo. Era nata la teoria che in Cristo sarebbe solo una volontà, quella divina, per capire l'unicità della persona. Avevano negato una propria volontà umana e a prima vista appare anche una cosa buona che potrebbe essere solo una volontà in Cristo. Ma San Massimo ha subito capito che questo distrugge proprio il mistero della salvezza, perché una umanità senza volontà, un uomo senza volontà non è un vero uomo, è un uomo amputato. E quindi l'uomo Gesù Cristo non sarebbe stato un vero uomo, non avrebbe vissuto il dramma dell'essere umano che consiste proprio nella conformità della volontà nostra con la verità dell'essere. E così San Massimo indica con massima di decisione: la Sacra Scrittura non ci dimostra un uomo amputato, un uomo senza volontà, ma un vero uomo completo. Dio in Gesù Cristo ha realmente assunto la totalità dell'essere umano, quindi anche una volontà umana. Dicendo questo si capisce che è vero, è uomo o non, se è uomo ha anche una volontà. Ma nasce poi il problema: non esiste qui un dualismo tra due personalità complete, ragione, volontà, sentimento? Come superare il dualismo, conservare la completezza dell'essere umano e tuttavia trovare l'unità della persona di Cristo che non è schizofreno? E San Massimo dimostra che l'uomo trova la sua unità, l'integrazione di se stesso, la sua totalità, non in se stesso, ma superando se stesso, uscendo da se stesso. Così, in Cristo, uscendo da se stesso, l'uomo trova in Dio, nel Figlio di Dio, se stesso. Non si deve amputare l'uomo per spiegare l'incarnazione, ma capire il dinamismo dell'essere umano solo uscendo da noi stessi, solo fuori di noi. In Dio troviamo noi stessi, la nostra totalità e completezza. E così si vede che non l'uomo che si chiude in sé è l'uomo completo, ma l'uomo che si apre, che esce da se stesso, diventa completo, completo e si trova proprio nel Figlio di Dio, nella sua vera umanità. Per Massimo questa visione non rimane una speculazione filosofica, ma la vede realizzata nella vita concreta di Gesù, soprattutto nel dramma di Getsemani, in questo dramma dell'agonia di Gesù, della sofferenza, dell'angoscia dalla morte, della opposizione tra la volontà umana di non morire e la volontà di Dio che si offre, in questo dramma del Getsemani si realizza tutto il dramma umano, il dramma della nostra redenzione. E Massimo ci dice, e noi sappiamo che è vero, Adamo, e questo Adamo siamo noi stessi, Adamo pensava che il no sarebbe il massimo della libertà. Solo chi può dire no sarebbe realmente libero. Per realizzare realmente la sua libertà dice no a Dio, così pensa finalmente essere se stesso, arrivato al culmine della libertà. Questa tendenza porta anche la natura umana di Cristo in sé, ma la supera perché Gesù vede che non il no è il massimo della libertà, la chiusura di me, ma il massimo della libertà è il sì, la conformità con volontà, la volontà di Dio. Solo nel sì l'uomo diventa realmente se stesso, solo nella grande apertura del sì, della unificazione della sua volontà con quella divina, diventa immensamente aperto, diventa divino. Essere come Dio era il desiderio di Adamo, cioè essere completamente libero, ma non è divino, non è completamente libero, chiudendosi, ma uscendo da sé nel sì, diventa libero. E questo è il dramma del Getsemani: non la mia volontà, ma la tua. Il trasferire della volontà umana alla volontà divina, e così nasce il vero uomo, così siamo redenti. Questo con brevi parole, il punto fondamentale di quanto voleva dire San Massimo, e vediamo che qui realmente in questione tutto l'essere umano, tutta la questione della nostra vita. San Massimo aveva già in Africa problemi difendendo questa visione completa dell'uomo e di Dio, e poi fu chiamato a Roma nel 649. Qui il Papa Martino I aveva convocato il Concilio Lateranense proprio a difesa delle due volontà di Cristo. E il Papa, a causa di questo, è stato condannato a morte. Massimo continuava tuttavia a ripetere: è impossibile affermare in Cristo una sola volontà. E per questo, insieme ai due suoi discepoli, chiamati Anastasio e Massimo, fu sottoposto a un estenuante processo, benché avesse ormai superato gli 80 anni di età. Il tribunale dell'imperatore lo condannò con l'accusa di eresia alla crudele mutilazione della lingua e della mano destra, i due organi mediante i quali, attraverso parole scritte e parlate, Massimo aveva combattuto l'errata dottrina dell'unica volontà di Cristo. Infine il santo monaco, così amputato, venne esiliato nella Coclide al Mar Nero, dove morì sfinito per le sofferenze subite, con 82 anni, il 13 agosto dello stesso anno 662. Il pensiero del confessore, mi sembra è divenuto evidente, non è mai un pensiero solo teologico, speculativo, ripiegato su se stesso, perché ha sempre come punto di approdo la concreta realtà del mondo e della salvezza. In questi contesti dove ha avuto dovere soffrire, non poteva solo fare filosofie teoriche, doveva cercare come vivere, che cosa sono io, che cosa è il mondo. All'uomo creato a immagine di Dio affidò il Creatore la missione di unificare il cosmo. e come Cristo ha unificato l'essere umano, ha nell'uomo unificato il cosmo e ci mostra come unificare nella comunione di Cristo il cosmo e così arrivare realmente a un mondo redento. La vita e il pensiero di Massimo restano illuminati da un immenso coraggio nel testimoniare l'integrale realtà di Cristo senza riduzioni e compromessi. E così appare chi è veramente l'uomo, come dobbiamo vivere per rispondere alla nostra vocazione, vivere uniti a Dio e così uniti a noi stessi e al cosmo, dando al cosmo stesso e all'umanità la giusta forma. Il sì di Cristo, questo universale sì, ci mostra anche con chiarezza il valore normativo che dà il collocamento giusto a tutti gli altri valori. Pensiamo ai valori oggi così conosciuti e giustamente difesi, valore della tolleranza, della libertà, del dialogo. Ma una tolleranza che non saprebbe più distinguere tra bene e male diventerebbe caotica e autodistruttiva. È una libertà che non rispetta la libertà degli altri e non trova la comune misura delle nostre libertà, diventa anarchia e di nuovo distrugge l'autorità. Il dialogo che non sa più su che cosa dialogare diventa una chiacchierata vuota. Tutti questi valori sono grandi e fondamentali, ma possono rimanere veri valori soltanto se hanno il punto di riferimento che li unisce e gli dà la qualità di valore. E questo punto di riferimento è la sintesi di Dio e cosmo e la figura di Cristo nella quale impariamo la verità di noi stessi e impariamo così come collocare tutti gli altri valori perché abbiano il loro giusto significato. Gesù Cristo come punto di riferimento che dà luce a tutti gli altri valori è quindi l'ultima parola della testimonianza di questo grande confessore e così alla fine Cristo ci indica che deve il cosmo divenire liturgia, gloria di Dio e che l'adorazione è l'inizio della vera trasformazione, del vero rinnovamento del mondo. Perciò vorrei concludere con una parola fondamentale e nelle opere di San Massimo conclusiva questa catechesi. Dice: noi adoriamo un solo Figlio, insieme con il Padre e con lo Spirito Santo, come prima dei tempi, così anche ora e per tutti i tempi e per i tempi dopo i tempi. Amen.